Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. È ben noto che se c'è un modo per convincere i cittadini a ridurre gli sprechi è farglieli pagare. Per esempio, si è visto che nei condomini in cui, anziché pagare il riscaldamento sulla base dei metri quadri del proprio appartamento, si introduce il principio per cui ognuno paga in base ai propri consumi effettivi, i comportamenti dei coinquilini diventano rapidamente più virtuosi e gli sprechi si riducono di conseguenza. Un principio analogo, ma di cui invece si osservano solo i primi esempi, oggi si sta finalmente cominciando ad affermare anche per quanto concerne la raccolta dei rifiuti, e tra i primi a introdurre questo principio, a tentare questa strada, c'è il comune in cui incidentalmente vivo, il comune di Malnate in provincia di Varese. Ci facciamo spiegare tutto dal sindaco Samuele Astuti. Buonasera Samuele. Buonasera a voi. Tra l'altro tu sei un esperto di informatica, quindi diciamo che hai delle competenze che in questo caso sono molto significative. Come funziona il sistema? Sì, infatti il sistema funziona con dei tag RFID, che è quello di cui mi occupo all'interno dell'università. Il sistema funziona in maniera molto semplice: noi abbiamo distribuito a tutti i cittadini uno a uno dei sacchi che sono riconoscibili, perché ogni sacco ha appiccicato un tag RFID, quindi un piccolo microchip che si presenta come un'etichetta bianca, di quelle che si mettono sulle buste, per intendersi, no? Esattamente, quindi ogni cittadino ha una sua dotazione di sacchi neri e ogni sacco nero ha dentro un codice che riconduce direttamente al cittadino. Quindi nel momento in cui noi andiamo a fare la raccolta, i mezzi sono dotati di lettori RFID e leggono il sacco di ogni singolo cittadino. Quindi noi conosciamo in tempo reale, tra l'altro, quanti sacchi ha prodotto all'interno dell'anno ogni singolo cittadino. Oh, d'accordo, quindi contate il numero dei sacchi, non li pesate singolarmente, non i sacchi in questo momento? No, non li pesiamo singolarmente, anche perché ci sono dei problemi tecnici sul montare delle pese sui mezzi. Pesiamo invece il mezzo nel suo complesso, anche per tenere sott'occhio non soltanto il numero dei sacchi, ma anche la quantità di indifferenziato che viene prodotto dai cittadini. Da quanto state facendo questa operazione e quali sono per ora i risultati? Allora, il progetto è iniziato a maggio e i primi risultati che abbiamo avuto nel mese di agosto sono molto incoraggianti, perché è raddoppiato la quantità di umido prodotto dai cittadini ed è praticamente più che dimezzata la quantità invece di indifferenziato prodotto. Parlando con qualche cittadino durante l'estate, mi dice che ormai passa il dopo cena non più a guardare la televisione ma a separare i rifiuti. Sì, sono diversi che si divertono ormai in questo modo, e noi ne siamo assolutamente felici, perché questo porta un risparmio diretto proprio per il cittadino. Certo, tra l'altro credo che la legge in Italia, correggimi se sbaglio, obblighi sostanzialmente i comuni a far pagare ai cittadini solo in funzione di quanto loro pagano per smaltire i rifiuti. È ancora così? Esattamente, e in questo modo in realtà riusciamo ad avere anche degli sconti per i cittadini interessanti, tenendo conto che loro pagano sulla base di una tariffa che è divisa in due: una quota fissa, sì, che copre i costi generali del servizio, certo, che è determinata dal numero di metri quadri dell'abitazione, sì, e un altro pezzo invece sul numero di sacchi che sono stati raccolti. Prima di partire con questa attività voi avete fatto una serie di incontri, come sono andati? Ha partecipato molto, la gente? Molto partecipati, devo dire che come ogni cambiamento all'inizio ha destato un po' di paura, però devo dire che mi sembra che nel giro di pochi mesi i cittadini si siano abituati a questo nuovo sistema di gestione del servizio di raccolta. Serate molto partecipate, in due serate ci saranno state almeno 700 persone che hanno partecipato agli incontri. E su un comune che ha, diciamolo, 17.000 abitanti, ecco, okay. Quindi diciamo che quelle serate più il passaparola più tutta una serie di percentuali da referendum in Italia, direi. Vabbè. E quindi però devo dire che si è creato anche un grosso dibattito all'interno della città. Per qualche mese nei bar la mattina si parlava di rifiuti, diciamo che una settimana intera è stata dedicata a dove andava l'uovo doveva essere buttato. Bene, va nell'umido, vero? Confermi? No, allora dipende anche dalla quantità. Un'altra settimana è stata dedicata per esempio alla sabbia dei gatti, alla sabbionaia dei gatti, beh, quella, e anche lì se è poca può andare andare tutto sommato anche nell'umido. Se diventa tanto, invece va nel secco, va come, nel per, secco. Come per le uova. Come per le uova, va bene. Invece possiamo concludere a proposito di aneddoti in bellezza, perché arriviamo al capitolo dei furbi. Io lo chiamerei così, no? C'è stato qualcuno che ci ha provato, ha detto adesso lo frego il sindaco. Esattamente, tra l'altro con pochissima furbizia, perché quest'anno la tariffazione funziona come quella dell'anno scorso e dall'anno prossimo che cambierà la tariffazione quindi... e funzionerà come avevo detto prima, quindi furbizia inutile. Però c'è stato qualcuno, pochi per fortuna, perché diciamo che i sacchi neri nei boschi sono aumentati veramente di molto. Perché poco. Questa era una vostra preoccupazione, che la gente cominciasse a buttare la spazzatura nel bosco, per capirsi. Insomma. Sì, diciamo che noi eravamo abbastanza confidenti che non l'avrebbero fatto, sì. Però in tanti hanno posto questo problema e quindi abbiamo fatto un'attività importante di sensibilizzazione, abbiamo lavorato un anno per istituire le guardie ecologiche volontarie che controllano appunto i boschi e i parchi nei dintorni di Malnate. Devo dire che è aumentato di poco, però qualcuno ci ha provato. Abbiamo avuto un nostro concittadino che ha deciso di staccare tutti i tag RFID dai sacchi e li ha buttati tutti insieme in mezzo al bosco. Evidentemente noi abbiamo recuperato i tag e abbiamo subito identificato il malfattore. Quindi veramente sì. Si è autodenunciato questo signore, sì, come sì. Se avesse lasciato la carta d'identità sul luogo dell'omicidio, esattamente, per capire. Esattamente. Un altro problema che abbiamo avuto, ci sono due cittadini, uno dei due è stato già identificato, l'altro non ancora, che ha l'abitudine tutte le mattine molto presto di lasciare il sacchettino dell'indifferenziato dentro i cestini in giro per la strada. Uno è stato identificato, beccato e ha smesso di farlo, su un altro stiamo lavorando e stiamo ipotizzando delle trappole per topi, cosa, esatto. Cosa fare? No, non lo so, c'è chi si diverte a separare i rifiuti e chi si diverte ad alzarsi all'alba per buttarli nel cestino. E vabbè. Anche questo crea socialità in una città. E con questa possiamo salutarci. Grazie Samuele Astuti, sindaco di Malnate. Buonasera a tutti. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì.